Ciao, buona giornata a te, a tutti e a tutte. Sì, noi ne abbiamo parlato a lungo nella trasmissione e ne riparleremo anche domani, insomma, sentendo le voci dei promotrici e dei promotori di questo referendum. Ne abbiamo parlato a lungo per, diciamo, due motivi, a mio parere, molto rilevanti. Uno, per come è nato ed è stato costruito questo referendum, nel senso che questo referendum è nato dalla constatazione di un'esigenza di base di cittadini e cittadine bolognesi che si sono trovati a iscrivere il proprio figlio o la propria figlia alla materna e gli è stato risposto dal comune che dovevano iscriverlo a una scuola privata, paritaria, che veniva finanziata dal comune, appunto. Gli veniva proprio fornita la lista e questo ovviamente andava in contraddizione su due punti, cioè uno sul fatto che comunque queste scuole private, anche se finanziate dal comune, hanno una retta che va, ci dicevano, dai 150 ai 1000 euro il mese a seconda di quale scegli, e l'altra di principio ma non teorico e astratto, il fatto che, come ci ha raccontato appunto una madre che si è trovata in questa situazione, questo andava in contraddizione con il modo con cui lei voleva che venisse educata sua figlia, cioè le diceva la libertà di scelta non può essere solo delle famiglie cattoliche che vogliono mandare la propria figlia alla scuola cattolica, ma deve essere anche mia che la voglio mandare alla scuola pubblica. E siccome facendo due conti, senza i finanziamenti alle scuole private, il comune, e investendo quei soldi sulla pubblica, il comune avrebbe potuto rispondere a tutte le richieste, è evidente che dietro c'è un problema ideologico e l'ideologia sta dall'altra parte in questo caso. Il secondo punto per cui ne abbiamo parlato molto è perché crediamo che questo referendum abbia una grande valenza extra bolognese, insomma, non so se definirla nazionale, nel senso che oltre al fatto di per sé, alla concretezza della questione, ha il merito questo referendum di aver riacceso in Italia un dibattito che sembrava ormai dato per scontato, nel senso che in questo paese, lo sappiamo, insomma, tutti e tutte, c'è una legge che è stata voluta da Berlinguer, quindi si parla della fine degli anni 90, che è la legge sulla parità scolastica, la cosiddetta parità scolastica, che sostanzialmente equipara le scuole private a quelle pubbliche da molti punti di vista e come dire, serve su un piatto d'argento le argomentazioni per la richiesta di finanziamenti pubblici. Che insomma non è dato da poco. Senti, una cosa ti volevo chiedere, ma insomma avrete ampiamente discusso e parlato nel corso della trasmissione. Parlavi di carattere nazionale della consultazione. Quello che salta agli occhi, probabilmente la prima cosa che salta agli occhi, è che diciamo la stragrande maggioranza del mondo della politica, chiamiamolo così, era tutto o schierato o verso una sola proposizione, una sola proposta, che peraltro è quella che ha perso, ovvero sia il mantenimento del finanziamento pubblico alle scuole private. Per dirne una, insomma, si è mosso il Cardinal Bagnasco, quindi diciamo il Vaticano, nelle vesti di uno dei suoi personaggi più autorevoli, che è andato a far campagna elettorale. Sono dati piuttosto rilevanti, no? Sì, diciamo che la campagna elettorale sostanzialmente per il fronte della risposta A al quesito, che era il no all'abolizione dei finanziamenti pubblici alle scuole private, sostanzialmente è stato portato avanti dal Vaticano e dal PD, credo che si possa dire senza rischiare di essere troppo sintetici, insomma sì, anche il PDL, la Lega ovviamente erano tutti schierati, ma in una città come Bologna la campagna poi l'ha fatta il PD, l'ha fatta tutto il mondo delle cooperative, del privato sociale, sia cattolico che quello legato al PD. E quindi, come dire, come ci diceva giustamente una promotrice, i poteri forti, nel senso che lo sono a livello nazionale, ma tanto più a livello bolognese. Se noi mettiamo insieme il PD, le parrocchie e la Lega delle Cooperative, che era schieratissima anche quella contro l'abolizione del finanziamento pubblico alle scuole private, beh, insomma, li abbiamo citati tutti, credo. Beh sì, una città come Bologna, ecco, il grosso è quello. E quindi, insomma, questo mi sembra estremamente significativo. Fra l'altro è stata una campagna elettorale referendaria, scusate, insomma, dove evidentemente hanno perso un po' anche il controllo chi era per non cambiare la situazione, perché evidentemente si devono essere resi conto che questo referendum parlava e parlava molto e chiaramente alla cittadinanza, perché a un certo punto hanno cominciato a far scendere in campo, usiamo insomma l'espressione berlusconiana perché ci sta bene, i papaveri più alti, insomma Bagnasco, ma è sceso in campo anche Prodi, il sindaco di Bologna ha fatto, forse è stato l'avanguardia, la testa d'ariete della campagna referendaria. Non lo so, credo che nella forma della democrazia sia la cosa più scorretta che potesse accadere, visto che si trattava proprio di finanziamenti comunali. E oltre a questo, anche la neo ministra della pubblica istruzione ha preso posizione pubblicamente sulla stampa, sempre a favore del finanziamento privato del finanziamento pubblico alle scuole private. Quindi, insomma, mentre quello che ci dicevano i promotori e le promotrici che abbiamo sentito, insomma, in un paio di trasmissioni dell'Ora di Buco, è che loro quello che avevano molto evidente era, da una parte, che avevano dalla loro una serie, diciamo, di personalità, come dire, di intellettuali e uomini e donne nello spettacolo, non so, da Guccini a Wuming, per dire, due che hanno comunque, come dire, penne e voci che hanno un seguito, insomma, ma dall'altra la cosa ancora che per loro e anche per noi, insomma, era ancora più significativa era il fatto che loro si sono molto spesi in una presenza sul territorio, nel volantinare ai mercati, per strada, davanti alle scuole, eccetera, eccetera, e dicevano che in queste occasioni la risposta era molto forte, nel senso che le persone si avvicinavano spontaneamente, conoscevano la questione e dichiaravano, insomma, il loro appoggio. Senti Elena, adesso diciamo nella pratica che cosa potrebbe succedere? Perché il referendum è un referendum consultivo e il Comune di Bologna mi pare che abbia adesso a disposizione 3 mesi di tempo per decidere il da farsi, sostanzialmente. Le prospettive che si aprono, quali potrebbero essere, anche in considerazione del fatto che Bologna è stata spesso e volentieri una città laboratorio nel bene e nel male per la politica di questo paese? Per cui, insomma, magari quello che potrebbe succedere a Bologna potrebbe interessare di rimbalzo anche altre città, anche Roma in primis, no? Certo, io sinceramente è ancora tutto da vedere e magari, insomma, cercheremo di stare attenti nei prossimi tempi. La mia valutazione personale, perché diciamo i promotori e le promotrici, quelli insomma del comitato articolo 33, ovviamente hanno rimandato questa fase al dopo voto, quindi con loro non ne abbiamo ancora parlato, anche se loro erano veramente molto sicuri di vincere e anche però molto insomma, sapevano perfettamente che, essendo un referendum consultivo, non è detto che poi l'amministrazione comunale bolognese, come di ascolto a questo referendum. Io sinceramente quello che temo è questo, perché vedendo come le prassi del PD, ecco, sostanzialmente, cercare di, se girassero la faccia all'altra parte, cercassero di far finta non è successo nulla, lo troverei piuttosto scontato come atteggiamento, ecco. Dopodiché già stamattina, insomma, leggevo da parte invece di chi ha sostenuto questo referendum, insomma, che a questo punto, che ora comincia un'altra fase molto importante, e cioè quella di cercare di far contare nella prassi questo risultato, cioè di fare pressione sul comune perché cambi qualcosa. Non è facilissimo perché nel senso questo finanziamento nasce da un sistema cosiddetto integrato che è stato voluto addirittura da Bersani quando era governatore dell'Emilia. Dell'Emilia, sì. Quindi, come dire, è proprio del PD, ecco. Sì, che poi devono cambiare idea loro, non so, non credo che la cambieranno, certo che però questo comitato ha dimostrato che si può costruire una politica dal basso che metta un po' con le spalle al muro chi governa senza ascoltare minimamente la popolazione. Che poi è un sistema che fece scuola, perché è da lì che poi è partito anche ideologicamente tutto il progetto Berlinguer. Insomma, l'Emilia Romagna in qualche modo è stato un po' un terreno di prova per un sistema che avrebbe dovuto trovare poi la sua... Sì, non c'è dubbio, e che ha anche in parte trovato, perché poi non ci scordiamo che queste stesse scuole bolognesi che ricevono, si tratta il referendum, parla di... 1 milione di euro l'anno per le scuole della materna privata, che insomma sono tante, perché si sta parlando solo delle materne, solo del comune di Bologna, eccetera. Ma queste scuole non ricevono finanziamento solo dal comune, perché poi ci sono i finanziamenti di provincia e regione, quindi, che sono ancora un'altra cosa. Quindi il flusso di denaro è cospicuo, ecco. Il flusso di denaro è cospicuo, e forse bisognerebbe anche, non solo a livello bolognese, come dire, contarli questi soldi, ecco, perché siccome arrivano da vari rivoli si rischia di perderne la quantità. E poi c'è la questione del bonus scuola, che è ancora un'altra questione, ma che ideologicamente nasce sempre di lì, perché il problema, diciamo, fino a un certo punto è stato aggirare l'articolo 33 della Costituzione, che dice appunto che le scuole, chi vuole fare scuole private le può fare, ma senza oneri per lo Stato. Per aggirare questa questione del senza oneri per lo Stato si è escogitata questa furbata del bonus scuola, che sarebbe: io non do i soldi alla scuola, ma lo do alla famiglia che vuole iscriversi a quella scuola, che poi a sua volta lo riversa alla scuola, sostanzialmente. E ora mi sembra che non abbiano più nemmeno questo problema di aggirare l'articolo 33, perché a parte il fatto che il Comune di Bologna questo 1 milione di euro lo versa direttamente alle casse della scuola con questo sistema integrato emiliano, e per dirne uno, Polito una decina di giorni fa dalla pagina del Corriere della Sera ha sostenuto che era molto ideologico parlare dell'articolo 33, perché in realtà qui si tratta di finanziamenti e non di oneri. La differenza filosofica ci sfugge. La differenza non ce l'ha spiegata, l'italiano non ce l'ha, però può darsi che Polito abbia una sua, cioè sì, nel senso che oneri, dentro oneri ci rientrano anche finanziamenti. Beh, dovrebbe, insomma, poi adesso chiederemo audizione al Devoto Oli, però ci sembra di ma poter io il Devoto Oli l'ho anche guardato, guarda, sì, ti dico la verità, hai una certa però, esperienza poi nel settore, ecco. Però non ci ha aiutato, ecco, da questo punto di vista. Andrebbe chiesto a Polito in persona, ma non so se ha voglia di spiegarlo, visto che in quell'editoriale, ripeto, scriveva questa frase, poi metteva punto, andava a capo. Vabbè, comunque a proposito di ideologia e di questo aggettivo ideologico che di solito viene sempre messo quando uno termina gli argomenti, non è inutile sottolineare che il sistema dell'istruzione emiliano, in particolar modo quello della scuola primaria, dell'infanzia, funzionava benissimo prima della parziale privatizzazione. Insomma, venivano da tutto il mondo a studiare un modello che era perfettamente pubblico, quindi non è che ci fossero particolari bisogni o necessità, no, di far inserire il privato lì. Del forse resto, c'è la a livello nazionale, sinceramente, non è che la legge sulla parità scolastica abbia migliorato i livelli della scuola italiana, ecco. A parte che si tratta ancora di numeri molto marginali se andiamo a contare gli iscritti e le iscritte nelle scuole private, che poi sono cattoliche al 90% in Italia, ma notoriamente, insomma, non è neanche che abbiano questo grande livello, ecco. Cioè, è stato proprio una marchetta pagata, insomma, da Berlinguer, e poi come sanno fare questi signori l'hanno fatto diventare un motivo molto profondo e molto importante, ma non c'è veramente nessun motivo. Fra l'altro, insomma, la legge della parità, quella di Berlinguer, io invito chi ci ascolta ad andarsela a leggere, perché incredibilmente, a differenza di tutte le leggi dello Stato sostanzialmente, è una paginetta scarna scarna, in cui non c'è scritto niente, perché noi non chiediamo niente a queste scuole paritarie per essere conosciute. Non sono previsti standard particolari. Cioè, prevediamo che gli chiediamo che abbiano un edificio, insomma, il minimo, e delle cose così, ecco. Poi per il resto possono organizzarsi come vogliono. Sì, chiamano gli insegnanti che vogliono, non devono usare le graduatorie che usano le scuole pubbliche, possono, insomma, fare esattamente quello che vogliono. Quindi anche quella legge lì, voglio dire, comunque non mi sembra che il sistema italiano, il sistema scuola statale ne avesse bisogno, no? Poi si è dovuto fare questa forzatura proprio filosofica di dire che pubblico non significa statale ma significa aperto a tutti. Ma in che senso? Quindi come un ristorante, cioè sì. Sì, sì. Tutto quello che è aperto a tutti. Ritorniamo al Devoto Oli, ecco, per l'appunto, ci sono dei problemi. Ma l'idea è questa, insomma, no? Che si sotto, fra l'altro, voglio dire, grandi chi ha pensato questi sistemi, chi ha pensato questi ragionamenti, adesso è nel governo, perché insomma si tratta, l'area di riferimento ovviamente è Comune della Liberazione, e Formigoni nella regione Lombardia l'ha sperimentato nel senso più ampio possibile, quest'idea, insomma, della scuola privata pubblica, l'ha sperimentata fino a arrivare a chiudere istituti pubblici in quartieri dove c'era un concorrente privato. Questo poi sempre alla faccia, appunto, del liberismo di facciata, ecco. Sì. Un'altra di quelle grandi questioni ideologiche che ogni tanto vengono ritirate fuori. Comunque, giustamente oggi sul sito dei referendari e delle referendarie bolognesi c'è, insomma, per chi se lo vuole andare a vedere, c'è una grande scritta vittoria, si ringrazia Bologna perché hanno votato 85.934 persone e il 59% appunto ha votato per la scuola pubblica, e insomma. Sì, un'ultimissima cosa sulle cifre, visto che c'è, insomma, molti media dicono ma non sono tantissimi e tantissime, ha votato circa un terzo degli aventi diritto per un referendum comunale che si teneva, credo, per la prima volta o per una delle prime volte a Bologna, al di fuori delle normali consultazioni elettorali, perché di solito questi referendum si tengono quando ci sono anche altre consultazioni. Stavolta, curiosamente, è stato messo in una giornata in cui non erano previste altre consultazioni, e comunque, insomma, circa il 30% è andato al voto. Se consideriamo le percentuali che stiamo riscontrando in elezioni che dovrebbero essere ben più importanti, apparentemente, come quelle per i sindaci di alcune fra le principali città italiane, in primis la nostra, ecco, ci accorgiamo che non è che sia proprio andato a votare nessuno. Sì, infatti dici bene, curiosamente, perché fra l'altro il comitato articolo 33 aveva chiesto che fossero fatti, questo referendum fosse fatto lo stesso giorno delle politiche, ma curiosamente è stato risposto di no, è stato riallestito il tutto ieri. Fra l'altro, vabbè, la spesa ovviamente c'è stata come ci possiamo immaginare, ma oltretutto sono stati anche individuati dei seggi diversi rispetto al solito, perché con la motivazione di aprirne un po' meno è stato risuddiviso risuddivisa la popolazione. E quindi, insomma, le persone dovevano non solo sapere la questione, decidere di andare a votare, ma anche trovare un seggio che era diverso da quello a cui solitamente sono chiamate a votare. Quindi, insomma, ci si è messi d'impegno, ecco, per farlo andare male in qualche modo. Ci si è messi d'impegno per farlo andare male, ma come dicevi giustamente tu, quasi il 30%, visto che più o meno mi pare abbia votato il 40% alle amministrative. Eh sì, insomma, siamo quasi lì, ecco. Allora o si decide che anche chi viene eletto sindaco non è come dire, autorizzato perché non va a votare abbastanza gente, allora lo stesso discorso si può fare, oppure no. Cioè, ma quello che è certo, e l'abbiamo scoperto nostro malgrado, insomma, soprattutto col referendum sull'acqua, è che una volta che si è vinto il referendum la lotta non è finita, ecco. Ah, assolutamente no, ma qui poi tiriamo in ballo i grandi temi sulla democrazia in questo paese, credo che andremo a finire molto molto in là. Va bene, comunque insomma la notizia è questa, è una notizia sicuramente buona. In uno dei rari articoli che abbiamo trovato sulle prime pagine dei giornali ci sono le parole delle organizzatrici e degli organizzatori che dicono che questo è solo un primo passo, l'obiettivo è l'abolizione dei finanziamenti alle scuole paritarie private in tutto il paese. La battaglia è lunga, ma siamo qui pronte e pronti nel salutarti. Ti ringrazio e do ovviamente appuntamento a domani pomeriggio, quando tutta questa vicenda sarà ampiamente investigata a partire dalle ore 16. Sì, e fra l'altro insomma ci sarà anche lo spazio per chi ci ascolta, se vuole dire la sua insomma su questo argomento, domani durante l'ora di buco. Benissimo, quindi spazio a ascoltatrici e ascoltatori e spazio anche alle voci da Bologna, che purtroppo stamattina non siamo riusciti a rintracciare perché, essendo la maggior parte lavoratrici e lavoratori della scuola, stanno al lavoro, ma insomma domani è pomeriggio. Vabbè, chi era a lavorare sarà a lavorare, gli altri a dormire, perché stanotte avranno festeggiato. Anche questo è vero, questo vale per chi magari è in pensione. Va benissimo, un abbraccio e con te ci risentiamo domani pomeriggio. Allora, ciao. Ciao.